Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da due minuti, questa è la voce di Agostino Spallore che anche questa sera, oggi è giovedì, un giovedì di aprile, oggi è una giornata particolare per il sottoscritto perché è venuta a trovarmi una carissima amica, oggi è giovedì, dicevo 26 aprile 2012, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, vi ricordo che, come dire, questa sera è una serata un po' particolare perché il giovedì in questa fascia oraria, chiamata appunto Blu Radio Sera, c'è sempre di consueto il live, di solito sono con Maurizio, questa sera invece sono qui da solo perché purtroppo per problemi suoi fisici, chiamiamoli così, non hai potuto essere presente fisicamente qui, però siamo riusciti in qualche maniera, magari se sentite qualche problema tecnico, insomma, chiudete un orecchio se si può dire, ma insomma siamo riusciti a fare un collegamento a casa. Maurizio, ci sei? Sì, buonasera agli ascoltatori, sono da casa, la prima volta che non sono nella fossa di leoni, purtroppo sono un'altra fossa, quella di casa mia. Beh, intanto grazie per aver comunque accettato l'invito, so che non stai tanto bene, ma insomma... Sì, non so, però musicalmente bisogna proseguire, allora ma proseguo poi, da casa. Con questa artista questa sera non si poteva non fare. Certo. Prima però di presentare questa grande, grandissima cantante, vi voglio ricordare i nostri dati tecnici, quello in studio per quanto riguarda i numeri telefonici, ovviamente. Quello in studio, dicevo, è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se ci volete mandare qualche saluto anche alla nostra artista, vi ricordo il 346-2320-033. Il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare in streaming, basta cliccare sulla freccia dove la freccia play dove c'è il simbolo delle cuffie, lì si ascolta la radio 24 ore su 24 in diretta, quello è il famoso streaming insomma. Invece per quanto riguarda le nostre frequenze per il Veneto, vi ricordo 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Credo di aver detto tutto, no, mancano le pagine Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto 1, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. Lì trovate notizie inerenti alla musica rock. A questo punto veramente con tanta gioia e con grande piacere, un grande onore di avere prima di tutto una cara amica, ci siamo sentiti spessissimo ma poi soprattutto è una grande, grandissima artista che, pensate, ha fatto quanti chilometri? Più o meno, parla vicino, 850. È durato abbastanza il viaggio, tipo 10 ore di viaggio ieri. Alfina Scorza da Salerno, proprio dalla città di Salerno. Sì, di Salerno. Sì. Ciao, benvenuta a Blu Radio Veneto. Ciao Agostino, ciao. Maurizio, tu non la puoi vedere, ma... No, non posso vederla, però sento che ci sono altri musicisti, probabilmente ci sono altri musicisti che la seguono, che la incitano per fare il live di stasera. È una cosa molto positiva, perché live è assolutamente quello, è il nostro emblema, vero Agostino? Certo, beh, insomma, lo sai che la nostra filosofia è proprio quella di far sentire gli artisti emergenti soprattutto, e regalando loro questo spazio. Lei non è venuta da sola, ovviamente, ma si è fatta accompagnare dal suo... come dire, factotum, manager, come lo possiamo chiamare? Arrangiatore, produttore artistico. Pasquale Curcio. Eccomi, ciao a tutti. Ciao Pasquale, benvenuto anche a te. Grazie. E poi al finale lascio a te presentare gli altri due artisti. Certamente. Allora abbiamo alla chitarra Costantino Caruccio e alle percussioni Ivan Cantarella. Maurizio, io l'ho sentita prima mentre provava, ho scritto anche su Facebook, mi sono venuti i brividi perché è una voce bellissima, sentirai qualche pezzo. Sarò sicuramente in ascolto attentamente, mi raccomando, la voce di Alfina. Si cade la linea, mi raccomando. Certamente. Allora, Alfina, chi è Alfina? Ecco, bella domanda. Chi è? Ma soprattutto... sognatrice, ecco, forse fin troppo. Fin troppo perché difficilmente riesco ad essere concreta, ecco. E vivo sempre un po' per aria, infatti mi prendo anche delle, posso dirle, dei cazziatoni per questo. Alfina! Ma perché? Beh, questa è la mia essenza, ecco. E poi, non lo so... Non riesco bene a definirmi. Ma io volevo solamente sapere dal punto di vista musicale comunque. Vabbè, questo perché certo. Sì, ecco, coincide anche con questo mio lato sognatore, coincide proprio con il mio modo anche con quello che faccio. È importante, credo, sognare quando si canta, quando si suona, avere questo tipo di personalità, ecco. Poi vabbè, io... cerco di mettere me stessa, ecco, soprattutto me stessa in quello che faccio. Cerco di non imitare nessuno, credo che questo sia una cosa fondamentale. Certo. E niente, cerco comunque sempre di migliorarmi, di studiare, oltre al fatto di cantare, quindi conoscere la musica e i vari aspetti musicali, e di mescolare tutti gli ingredienti e metterli nella mia musica per farla proprio, però per farla mia, ecco. Certo. Ma tu scrivi anche le tue canzoni, vero? Scrivi? Sì, scrivo musica e parole e... beh... non è semplice come cosa, io... spero appunto di arrivare, ecco, di arrivare in qualche modo. Se resti sempre umile, credo che farai tanta strada, ma tu lo sei già di tuo, quindi da quello che ti ho conosciuto io, insomma. Ti ringrazio. Pensati, Maurizio, che una volta ci siamo sentiti, fa: ciao, ti disturbo? No, no, dove sei? Al mare. Stava prendendo... Beata lei. Io adoro beata il mare, lei. Poi beata io sono la costiera amalfitana, cioè, voglio dire, anche quella cilentana, che sono due meraviglie, per cui... Qual è la più bella? Allora, mi piacciono tutte e due. Io appartengo al Cilento, però. Quindi, rispetto alla costiera amalfitana è un po' più grezza. Senti proprio la Grecia lì, ecco. Invece quella amalfitana è un po' più turistica, ci sono più turisti. Invece quella cilentana è più isolata, però è meravigliosa. Quella la costiera amalfitana è meravigliosa. Certo. Proprio bella, bella. Le case, come sono strutturate, il mare pulitissimo. Solo Salerno, insomma, il mare. Vabbè, Agostino, città. A casa c'ho il curriculum del suo excursus sonoro. Ho letto che hai cominciato all'età di 16 anni, mi pare, a muoverti nell'ambito musicale. Sì, una cosa è iniziata per caso, perché la musica non apparteneva al mio... Nella mia infanzia volevo fare tutt'altro, tra l'altro. Cioè, facevo la ballerina fino a 14 anni, ho fatto danza classica, poi sono diventato 1,80 m, ho detto vabbè, forse è il caso che non continuo su questo percorso. Però poi comunque sono sempre stata una bambina musicale da piccolina, andavo quello, magari non ero così brava, però andavo sempre a tempo, ero precisa sul tempo e sono sempre stata un po' intonata. Comunque ho ascoltato tanta musica, questo anche i saggi, quando sentivo poi a casa pure si ascoltava tanta musica, e me la sono portata questa cosa. E niente, al liceo ho cominciato a cantare in classe durante i periodi scioperi, queste cose qui, e mi dicevano: Malfi, non sai che forse potresti, c'è una bella voce, ma perché non tenti? Ho detto vabbè, l'ho preso un po' sotto gamba, perché fino a quel momento, fino a 21 anni, è stato un hobby per me comunque la canzone, tanto è vero che studiavo giurisprudenza, ho preso proprio tutto un altro percorso, però poi ho detto vabbè, ma solo volevo conoscere tanti aspetti musicali, ero soltanto una cantante che non conosceva la musica né niente, ho detto vabbè, mi piaceva tantissimo questa cosa, perché poi più passavo gli anni più prendevo la cosa con passione, ho detto adesso mi metto a studiare la musica, non me ne frega di niente, di nessuno, e ho cominciato a studiare il pianoforte, ho fatto i miei 5 anni esame di quinto anno, musica classica proprio, poi vabbè, adesso tra un anno sono vicina alla laurea in musica jazz, insomma cerco di studiare, ecco, di studiare tanto, poi... Alfina, io direi a questo punto di far ascoltare qualcosa per quanto riguarda il tuo progetto che sta per venire alla luce, insomma, praticamente, giusto? Va bene, ok. Abbiamo scelto una canzone dal disco, innanzitutto, per cominciare questa carrellata con la tua musica, e dopo ci farai sentire ovviamente anche la tua voce dal vivo. Vi posso garantire, cari ascoltatori, di non cambiare canale, perché vi posso garantire, dicevo, che ha una voce straordinaria e bellissima, e poi i musicisti sono molto bravi, e avremo... Infatti. Dopo anche, quando è stato, Maurizio, ci sei innanzitutto? Sì, sono qua. No, perché non ti vedo. Chiaramente non mi vedi, sono qua a casa, allora, davanti all'apparecchio radio. Ti ricordi quell'artista che è venuto con tutti i vari strumenti, come si chiamava, che ha fatto l'esibizione? Erano in tre musicisti, anche lui, il Meridionale, che ha fatto una serata splendida all'insegna del folk. Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Vabbè, non importa, non ha importanza. Dicevo, ascolterete anche quella musica, avremo questa artista che ci canterà anche qualcosa nella sua terra, nel suo dialetto, quindi è una serata da non perdere assolutamente. Blu Radio Veneto vi regala anche questa cosa. Allora, Alfina Scorza ci presenta Gran Bazar. Andava ad occhi chiusi curiosi per strade di città. Avevo 13 anni, una personalità, dove il provincialismo regnava come fosse Dio. Amavo le persone con strane qualità, odiavo chi vantava furbizie ed ovvietà. L'amore è un programma, si sceglie e si quantifica. Ma cos'è la vita se non hai libertà? Quanti burattini ti sorridono qua. Passo il tempo camaleonte, diventavo sempre più eccitivo, ma l'orizzonte come un tuono precipita sulle piaghe del Gran Bazar. E c'era il desiderio di cogliere perché la gente si infettasse di squalli di pignè, ne fanno indigestioni per attimi ingannevoli. Quello che indossavo era demode, facevano le occhie che intorno a me guardavano indignati la mia camicia di balance. Ma cos'è la vita se non hai libertà? Quanti burattini ti sorridono qua. Passo il tempo camaleonte, diventavo sempre più pezzittivo, ma l'orizzonte come un tuono precipitai sulle piaghe del Gran Bazar. Qua senti quella musica tra la folla atterrita. Sulle piaghe del Gran Bazar. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un pezzo pieno di strumenti questo. Sì, sì, ricco. Ricco, ricchissimo. Sono molte contaminazioni comunque. C'è l'arabo, c'è il jazz, quindi lo swing. Insomma, credo che mi appartengono un po' queste cose. Maurizio, ci sei? Sì, sì, ho seguito attentamente radiofonicamente il pezzo. Ho notato c'era una chitarra un po' distorta. Chi la suonava la chitarra distorta? E devi chiederlo la persona dal disco. La suonavo io. Pasquale. Ah, Pasquale, ecco. Pasquale. Sì. Parla vicino al microfono, Pasquale, per cortesia, grazie. Era un po' troppo distorta. No. Sì. Era distorta nel momento giusto. E visto che ho sentito attentamente, è diverso sentire attentamente i pezzi da casa e non da radio, cioè da studio. Vorrei chiederti questo, Pasquale. Come l'hai fatta questa distorsione? Come l'hai inserita? Alfina prima ha detto che è un pezzo pieno di riferimenti musicali. Sì. Io credo che ogni sonorità si adatti molto bene poi al testo e soprattutto al personaggio. In molti brani c'è molta ironia e quindi a volte c'è un effetto wah-wah che magari sottolinea una risata. E allora può essere molto, diciamo, può essere utilizzato con ironia, appunto. E allora molte volte anche le distorsioni, le varie sonorità, ma soprattutto i vari colori, perché noi li definiamo un po' colori analogamente a come si comporta la luce, così anche sul piano sonoro analizziamo questo aspetto, ma non lo facciamo scientificamente, cioè lo facciamo analizzandolo poi col cuore, cioè tutto deve passare attraverso l'emozione. E allora credo che questo poi sia alla base di tutto. Quando ci poniamo di fronte ad un arrangiamento, preferisco che Alfina, come in genere faccio con tutti gli artisti che vengono lì allo studio, in genere lavoro in maniera, diciamo, collaborando strettamente con l'artista, cercando di tirar fuori proprio la personalità, e quindi da questo arriva la sonorità, arriva lo stile, arriva credo poi la personalità dell'artista, anche sulle distorsioni, quindi su tutti i piccoli colori, sui riverberini, diciamo, su tutti, sul missaggio finale, diciamo l'artista è determinante, soprattutto è un percorso che facciamo insieme. Ma fammi capire, com'è il rapporto comunque con Alfina dal punto di vista musicale? Ma è un rapporto di grande stima e rispetto. So che lei ti stima moltissimo innanzitutto perché si fida ciecamente di te. Sì, ma credo che alla base ci sia dell'onestà di fondo, cioè nessuno vuole apparire né all'ascoltatore né mentendo fra sé, quindi bisogna essere autentici per arrivare a comunicare un'emozione, quindi credo che alla base di tutto ci sia un grande rispetto, ma credo che poi questo sia il segreto del successo delle cose, essere se stessi, quindi fare diciamo più che un prodotto, ecco, detesto questo termine, cioè fare un brano, fare un qualcosa che ti rappresenti, credo debba essere alla base di ogni discorso artistico, credo. La musica la intendiamo un po' così. Certo. Maurizio, ci sei? Ah sì, ci sono. Le stavo ascoltando attentamente, perché si ascolta meglio quando non si è davanti, non si è nella fossa dei leoni, sei a casa. Volevo chiederti una cosa, leggendo nella biografia di Alfina, tu hai fatto anche del musical, in questo pezzo secondo me risalta le doti del musical della voce. Sai che non ci avevo mai pensato. Secondo me sì, perché è detto un pezzo variegato, pieno di stili, e il musical fa parte di uno stile anche qui. Beh... Sì, ma no, guarda, non so, questa cosa non l'avevo notata, me l'hai fatto notare ora tu. ho sentito attentamente il pezzo, ho avuto questa idea, così ho detto, vediamo che se sono d'accordo, ho tirato fuori questa idea mia, adesso, adesso nel proseguo del programma si vedrà, però secondo me in quel momento là, in questo pezzo, ho notato questa vicinanza, sia pure piccola, ma c'è. Forse nell'interpretazione. Esatto, nell'interpretazione, proprio in quella. Vabbè, il musical infatti mi ha insegnato questo, a pensare a quello che dico, alle parole, quindi a interpretarle, non solo a cantarle, per cui sì, forse sì, pensandoci bene, sì, forse c'è questo aspetto. Sai, Alfina, che abbiamo un amico in comune, io non lo sapevo, mi sono accorto leggendo la tua biografia. Abbiamo Vittorio Matteucci in comune. Vittorio è una persona splendida. Ho fatto un solo concerto insieme, però è stato un episodio particolare perché ho conosciuto questa persona dall'umiltà incredibile, certo. Una persona veramente umile, con una cultura immensa, veramente. E abbiamo fatto questo spettacolo, abbiamo rivisitato un po' tutti i brani del musical. Notre Dame, e Jesus Christ, è stata una bella esperienza quella. Cioè, tutti comunque cadono in Jesus Christ comunque. Jesus Christ credo che sia il musical più bello che sia stato mai fatto nella storia proprio del musical. Notre Dame è stato il primo in Italia che ha avuto successo, è stato questo Cocciante Pannella. Tra l'altro bellissimo comunque come opera leggera, però Jesus Christ è Jesus Christ. E Vittorio come l'hai conosciuto, insomma, in questo concerto? Allora, avete fatto qualcosa insieme, insomma? Abbiamo proprio fatto qualcosa insieme, mi hanno telefonato per, lo sai, c'è questo il cantante di Notre Dame. Sai che è di Abbiamo Padova. Pensato a te per duettare, c'era questo concerto alla Scala, alla Scala di Milano, alla Scala da Amalfi, questo paese che si chiama così. E in questa occasione abbiamo fatto, poi c'era questo paesaggio magnifico e abbiamo fatto tutta questa serie di brani insieme a altri due cantanti con noi c'erano. È stata una bella esperienza. E che rifaresti, scommetto? Sì, perché ti dà anche delle dritte, ti dice un attimo, aspetta, Alfina, però questa questa frase, dilla così, muoviti in questo modo, lui è bravissimo in questo, proprio a muoversi, non solo a cantare, ma proprio a muoversi sul palcoscenico e interpretare il personaggio. È grande, proprio il più grande secondo me in questo. Sai che è di Padova lui, vero? Questo non lo sapevo. No, sul serio? Veramente? Ti giuro, è qui di Padova, abita qui, eh. Abita, vive qui, sì sì. Okay. Dovrebbe venire anche qui in radio, insomma, a fare qualcosa di suo, insomma. Sì, sì, sì, è bravissimo. Vittorio è un caro amico, poi, tra l'altro, insomma, quindi... Ma non pensavo, non, sai che non l'ho, l'ho scoperto, magari leggendo così sbadatamente, poi ho trovato che, insomma, avevi fatto questo concerto. Adesso però il concerto ce lo fai qui. Ok. Maurizio, sei d'accordo? Sì, sì, io sto aspettando solo questo davanti all'apparecchio radio, solo questo. Guarda, ti posso garantire che resterai stupito dalla bravura di questa artista che ci è venuta a trovare, cioè Alfina Scorza. Cosa ci fai ascoltare? Adesso facciamo una cover di un pezzo degli anni 50 di Bixio, che all'epoca fu cantata da un cantante lirico, Achille Togliani. E veniva fatta tutto in maniera lasciami cantare una così in questo modo. Io e Pasquale abbiamo fatto un lavoro, l'abbiamo stravolta sia armonicamente sia melodicamente, quindi è rimasta un po' la strofa nel ritornello, ma è come se fosse quasi un pezzo inedito. Quindi il brano è Lasciami cantare una canzone. Domani partirai, quanta tristezza, forse la voce mia, mai più non udirai. Canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più, mai più. Lasciami quest'ultima illusione, perché sai che questo cuore, il cuore, me l'hai stregato tu, me l'hai stregato tu. Piangere, che vale adesso piangere, asciuga le tue lacrime, non piangere mai più. Lasciami cantare una canzone con te, come vuoi tu, perché forse domani, amore, non ti vedrò mai più. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum Che dolcezza, che bella questa canzone. La tua vena jazz quasi quasi si sente qui, è un pochino. Bossa nova. Sì, sì, sì. Alfina, hai sentito Maurizio? Hai sentito che... Sì, sì, ho sentito molto molto interessante. Alfina mi pare abbia detto bossa nova e bossa nova, sì. c'è molto della bossa nova, anche molto molto interessante come arrangiamento, come hai detto, proprio l'hai cambiato totalmente, stravolto dagli anni 50. Sì, sì, armonicamente, sì, in alcune parti abbiamo cambiato proprio la melodia, quindi è come è diventato nostro, ecco. È diventato nostro. È un pezzo che hai citato Bixio, Cherubini che Bixio. Che ha scritto anche la famosa Parlami d'amore, Mario. Esatto, ha scritto un sacco di cose, sì, sì. E bene, bene, è una bella versione. Alfine, io ti ho scoperto per caso perché ho letto che hai vinto un grande premio, cioè il premio Bruno Lauzi. Sì. Con una canzone che dopo ascolteremo. Io però ti voglio fare anche un regalo perché so che ci tieni alla tua terra e mi voglio spostare ad Anacapri e farti sentire la voce di una persona che ti conosce molto bene. Pronto? Buonasera. Chi è? Pronto? Mi senti? Pronto? Lo conosci? Alfina, hai capito chi è? No, no. Non pronto, non lo so. Chi è? Che devo dire? Devo aggiungere qualche altra cosa. Buon vento e buona musica. Oddio. Ciao Roberto. Roberto Ciao Gennaio. Ago, come stai Agostino? Bene, bene, tu? Io benissimo, buon vento e buona musica a tutti gli amici di Radio Ciao Blu. Roberto, ciao. Ciao. Che bello piacere, sentirti. Che sorpresa. Roberto, innanzitutto Dimmi. Ti faccio nome della nostra emittente, del sottoscritto e anche di Maurizio, anche se non è qui, ma insomma ti facciamo i complimenti per quel premio che tu organizzi ogni anno, il premio Bruno Lauzi, che ti rende veramente onore. Poi lo fai in una splendida cornice, Anacapri, una cosa meravigliosa. Sì, lo facciamo in Piazza San Nicola, che è la piazza, che è un teatro all'aperto, naturale, dove Brunetto Lauzi, come lo chiamo io, Brunetto, si esibì forse per il suo ultimo concerto all'aperto, prima di andare a suonare la chitarra in paradiso. Poverino. E fu un concerto memorabile con una standing ovation, lui era già malato, come tu sai, di Parkinson, sì. E giocò da grande uomo, da piccolo enorme gigante di uomo, di poeta e di cantautore, con la sua mano destra che chiamò la mia mano farfalla, e dedicò al pubblico una poesia struggente, ma allo stesso tempo molto molto autoironica, come era lui, no? Che giocava con la vita, giocava col destino. Certo, ma non è che ce l'hai per caso sotto mano la poesia? No, purtroppo non ce l'ho sotto mano. Vabbè, ma ti posso, non importa. No, ti posso semplicemente dire che lui si rivolgeva alla mano destra che tremava, no? E la coccolava, e a un certo punto la mano sinistra aveva una sorta di, così virgolette, crisi di gelosia, diceva a Bruno: ma perché tu coccoli solo la mano destra? E lui si rivolse alla sinistra e disse: non ti preoccupare, fra qualche tempo coccolerò anche te, perché lui sapeva che anche la sinistra avrebbe finito per tremolare, no? Mm-hmm. E quindi fu un momento di grande commozione. Questo premio nasce nella memoria di questo grandissimo cantautore, e forse anche per due altri motivi, che questo mondo ci piacerebbe molto più lento, e credo che in questo tu sia d'accordo, e ci piacerebbe anche forse un po' più musicale. Ma quello è la mentalità italiana da cambiare, sai? Sì, su questo sono perfettamente d'accordo con te. Io la cambierei completamente, sì, proprio, sì, specialmente alla luce degli ultimi fatti. Beh, noi siamo con te, nel senso che ci piace che tu faccia questo concorso, e non solamente te, ma anche altri come Musicultura, come altri concorsi che vengono fatti, perché certo, danno lo spazio agli emergenti. E io, come dico sempre, il sottobosco musicale è pienissimo di artisti che sono molto molto bravi. Io prima, mentre Alfine provava, già la avevo sentita tramite canzoni, però dal vivo sentirla qui mentre provava mi sono venuti i brividi. Ci sono degli artisti che sono veramente molto bravi, che secondo me meriterebbero di essere valorizzati di più. Noi nel nostro piccolo ci stiamo provando, certo. Alfine è uno degli esempi delle cantautrici che sono così, che hanno avuto dal premio Anacapri, Bruno Lauzi un pizzico di vetrina in più, ma so che lei sta lavorando a un CD, a un nuovo progetto di grande spessore, di grande intensità, e mi auguro che Alfina mandi un suo brano inedito al www.comunedianacapri.it. Perché lavorando. Noi la vorremmo anche quest'anno, la vorremmo. La chiami come ospite, giusto? La chiamiamo come ospite, oppure se ci manda un brano, se va in finale, riuscirà di nuovo forse a vincere, non te lo so dire. Ah, ma gli permette di partecipare ancora, pur avendo vinto? Se si manda un nuovo brano inedito, può partecipare anche chi ha vinto, oppure anche chi è stato escluso l'anno scorso. Certo. Marco, mi fa piacere dirti una cosa, che l'anno scorso, per esempio, tra i 7 finalisti c'era un friulano che si chiama Walter Juretig, o Juretig che dir si voglia, il quale è arrivato in finale, è arrivato al secondo posto per il miglior testo, e anche lui sta girando in tour. Sì. Quindi noi nel nostro piccolo stiamo dando un pizzico di vetrina ai giovani e alle giovani cantautrici. Che è quello che facciamo noi con la nostra emittente. Che è quello che, che è quello che fate voi. Poi oltretutto il fatto che voi siate una radio blu, mi invitate a nozze, perché io vi sto parlando dal blu di Anna Capri. E tra l'altro c'è da dire anche una cosa, che abbiamo un santo in comune, il vostro è molto più famoso, è Sant'Antonio, ma il patrono di Anna Capri è Sant'Antonio. Ah, non lo sapevo questo. Sai che loro sono passati oggi in Basilica comunque, Non ho capito? Loro sono passati in Basilica qui. Mi sembra doveroso. Io spero anche che abbiano fatto un inchino e un baciamano. Questo lo devi chiedere. Sì. L'hai fatto? Sì. mi sembra il minimo. Perché senza la fede qua non si va da nessuna parte. Ce l'abbiamo. Ah. Ascolta, raccontami un po' dell'edizione 2011, allora, quella che ha vinto Alfina. Com'è andata allora? Ma guarda, è stata un'edizione di sfavillante, nel senso che noi ci siamo avvantaggiati della conduzione di Andrea Vianello di Rai 3, accompagnato da un'attrice secondo me bravissima, che è Francesca Ceci, che sta portando in giro uno spettacolo teatrale con Ayala il magistrato, no? E in giuria il presidente della giuria è sempre il grandissimo maestro Gianfranco Reverberi, che è un po' il papà della musica d'autore genovese. Certo. E la madrina è Mariella Nava, che tra l'altro sta andando in giro portando il suo nuovo CD. Bravissima Mariella. Mariella, bravissima. E nella giuria Bimbo Marrale, che come tu sai è Mattia Bazzar. Certo. Quello che ha scritto le più belle canzoni, da Vacanze Romane a Stasera che Sera. Certo. E poi ancora Gianfranco Fasano, in giuria anche Marino Bartoletti, che oltre che a parlare di calcio è un grandissimo esperto di musica. Ah sì, è vero, questo l'avevo sentito. C'è Alberto Zeppieri, che è un editore, un produttore di Udine. C'è Pietro Gargano, che è un musicologo, che ha fatto l'inviato per 30-40 volte forse al Festival di Sanremo. Insomma, un bellissimo parterre. Quest'anno ti anticipo, perché siete talmente bravi voi di Radio Blu, che mi piace dirvi che ci sarà una piccola finestra dedicata a Lucio Dalla, il quale era un frequentatore di Anna Capri, tra l'altro. Era, come tu sai, un appassionato di isole, ma aveva un particolare feeling con Punta Carena, che è il luogo del faro di Anna Capri, che è il secondo più alto in Italia dopo quello di Genova. Certo. E quindi probabilmente, io me lo auguro, ci sarà Ron quest'anno nel parterre. E quindi c'hai fior fior di artisti, insomma. Ma mi piace dire che sono tutti amici. Vengono tutti per questo amore, per il piccolo enorme Bruno Lauzi, che era un uomo, come tu sai, piccolino, ma un enorme poeta con i capelli di luna. ha scritto delle bellissime canzoni. Abbiamo... delle bellissime canzoni. Abbiamo avuto tempo fa un gruppo qui di Padova, i Sismica, che hanno avuto l'onore di avere in esclusiva una canzone inedita di Bruno Lauzi, e loro l'hanno cantata, su autorizzazione della famiglia ovviamente, e loro l'hanno cantata proprio nel loro disco, insomma, la portano in giro per i concerti, insomma. E sono bravissimi, sono due fratelli, sono ragazzi bravissimi e amano da matti appunto Bruno Lauzi. Ma perché tu, se li conosci, perché non dici di iscriversi e di mandare un loro brano? Ah, va bene, magari ci stanno ascoltando, magari, quindi chissà. Io mi auguro che ci stiano ascoltando. Io approfitto di Ago, della tua affettuosissima disponibilità, per dire ai cantautori e alle cantautrici venete di iscriversi a questo premio, perché innanzitutto è gratuito, poi i finalisti sono ospiti di Anna Capri, è un'atmosfera che Alfina conosce molto bene. È un'atmosfera di grande intensità, di grande spessore, con una piazza che veramente è un teatro. Sì, infatti. E quindi mi piacere avere anche voi, eh? Io vengo giù subito, sono già lì. Tu sei lì, sei ospite di questo anziano signore, che puoi chiamare anche zio Robby, visto che ho tutti i capelli bianchi. Ma non sei tanto più vecchio di me comunque, no? Non lo so, non ce lo diciamo così, non lo diciamo, viviamo di nostalgia e di futuro. Senti, e di orizzonti puliti, blu. Soprattutto, infatti, è una manifestazione pulita, questo è da dire. Trasparente. Alfina, sei bellissima. Grazie. Di rosso e sensualità. Adesso un pezzo strepitoso. E adesso ce la canta dal vivo, sai Roberto, sono riuscito a fargli fare questa cosa dal vivo, qui in radio, in studio, e ce la regalerà, ed è la canzone che ha vinto il tuo festival, Bruno Lauzi, il tuo concorso. Giusto? Va bene, Ago. Va bene. Io ti ringrazio molto. Grazie a te. Ti ringrazio molto, vi auguro ancora di nuovo un buon vento e buona musica. Sì. E viva la musica d'autore e viva le radio che fanno musica vera. Insomma, noi cerchiamo di dare il massimo e di far sentire, come ti dicevo prima, gli emergenti, il sottobosco musicale. Insomma. Un inchino e un bacio a mano ad Alfina Scorza. Ciao Roberto, grazie. Ciao Alfina, a prestissimo. Ciao Roberto, salutami Anna Capri, mi raccomando. Ok. Ciao amici. Ciao Roberto. Ciao. Buona serata a voi, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Allora... Alfina, ti è piaciuta? Non me l'aspettavo. Questo è un mito, insomma, nell'ambito della musica. Roberto Giannani è qualcosa di straordinario, perché lui organizza questi concorsi. Sì, direttore artistico proprio del premio, sì. Che l'anno scorso, 2011, c'era una cantante di Salerno. l'ho vinto, non so perché, ma l'ho vinto. Si è presentata lì, ha iscritto... Io me ne stavo andando, solo questa aneddota, che quando... Una volta finito, c'eravamo esibiti ormai tutti, la serata era quasi alla fine, ho detto vabbè Pasqua, adesso che facciamo? Andiamo, ce ne va. Eravamo arrivati quasi alla fine della piazza. Sì ci fermò Mariella Nava. È vero? Sì. E poi fu annunciato il suo nome per ritirare il primo premio, e così andò, insomma. Poi venne nominato il vincitore assoluto e fu di nuovo lei, quindi nel rifare la strada, cioè noi ci eravamo di nuovo avviati verso l'albergo, e quindi tutti gli altri ci avevano chiamato al telefono perché non riuscivano più a trovarci, e quindi siamo ritornati sul palco per ritirare poi il premio assoluto, perché nessuno se l'aspettava, insomma, è stata una grandissima soddisfazione. Ti sei commossa? Un po' sì. Ci vuole anche. Ci vuole. Adesso però ce la regali qui dal vivo, va bene? Ok, va bene. Silenziosa è questa notte breve per me, le lenzuola coprono passioni senza un perché, si agita nel vento una camicia blu, da quella finestra scivolando via giù, gira il mondo languido te, segue il ritmo in questi istanti fatti per me, di una danza alcolica che porta con sé, capogiri e brividi davanti ad un tè. Quanta poesia caduta qua e fuoco troverà. La via coniglia come una lama mi taglierà. Nero sua sensualità pudica stanza si tingerà. Giocano le mani, toccano fantasie, corpi complici e lucenti fluttuano su biancherie. Sconosciuto il senso di questa realtà, come onda di frantumi questa mi travolgerà. Quanta armonia caduta qua il fuoco troverà. Va via la malinconia, come una lama mi taglierà. Di rosso e sensualità pudica stanza si tingerà. Va via la malinconia, come una lama mi taglierà. Di rosso e sensualità pudica stanza si tinge. Sensi che cantano in questo momento, perfetto unisono si alza così, come diamanti fugaci nel tempo, noi fluenti già siamo. Giorno fatto giorno poi ho tornato in me. Passi si allontanano prendendo un caffè. Segui l'ombra in felicità. Lascia quella porta col mio uomo che va. Disdetta malinconia come una lama mi taglierà. Perduta sensualità parete grigia mi tingerà. Sensualità, parete grigia mi tingerà. Parete grigia mi tingerà. Che meraviglia questa canzone, che meraviglia, dirò ancora che meraviglia. È la canzone che ti ho conosciuto, Alfine, sai questa, eh? L'ho sentita perché appunto sono andato a vedere chi aveva vinto il Bruno Lauzi, anche perché ho altre amiche che hanno partecipato a quel concorso, tipo la Federica Baglioni, insomma, per esempio, che un nome che mi viene in mente adesso, che è stata qui a Padova, insomma, una carissima amica che saluto caramente. E mi è piaciuta subito questa canzone qua, proprio questa variegata, come dire, tonalità vocale, si può dire. Sì. Me lo passi? Sì, un po' rabbeggiante. Maurizio, ci sei? Sì, sto ascoltando con molta attenzione questo pezzo, molto bello, e ho immaginato il pathos che Affine ha dato al pezzo, secondo me. Grande pathos, grande interpretazione, lo immagino chiaramente da casa, però ho sentito, si sentiva, c'era una grande partecipazione, e anche grande partecipazione dei musicisti che l'hanno seguita, certo, sicuramente. Certo. Sono in tre. Ah, bene. Tu non ci sei, ma io li vedo. Certo. Poi c'ho Pasquale Bell davanti lì col suo capellino. Gli altri due sono un po' nascosti, ma insomma lui lo vedo bene. Ah, ecco. Ti ripresento. Sì, giusto, perché no? Allora, oltre a Pasquale Curcio c'è Costantino Caruccio alle chitarre e Ivan Cantarella alle percussioni. Questo comunque è il tuo gruppo, quello che ti presenti anche se fai concerti? Sì, Alfine. Certamente. Quindi quando con vai... loro ormai c'è già un feeling... Poi ci troviamo anche, non solo musicalmente, ma anche caratterialmente. E ci divertiamo come pazzi, dove essere. Questo è l'importante, è alla base di tutto, insomma. Sì, sì, sì, infatti. Ago, mi intrometto. Sì. Leggevo tra le note, Alfine, che Gianfranco Reverberi l'ha definita formidabile questo pezzo. Se lo dice Gianfranco Reverberi, che è un musicista di grandissima esperienza e di statura elevatissima, vuol dire che è veramente formidabile. Sì, infatti mi ha fatto questo complimento e niente, sono rimasta un po', mi sono impietrita, non me l'aspettavo. No, vabbè, queste sono soddisfazioni, ecco. E... Beh, speriamo che andrà sempre meglio. Secondo me è formidabile, scusa se mi intrometto ancora, è formidabile perché è una bella, un bel connubio tra musica folk e interpretazione. Forse è quello che ha dato la scossa alla giuria. E Gianfranco Reverberi, non so se pensi così. Sì, ma lui è stato anche infatti il giudice di gara, quello principale. Sì, è stato lui e poi hanno votato all'unanimità tutti gli altri per questa cosa. Cosa che ho saputo dopo e mi ha fatto ovviamente molto molto piacere. Ma come ti è venuto in mente di partecipare a questo concorso, a questo premio, insomma? Perché ho pensato, avevo dei pezzi nel cassetto e ho detto adesso qualcosa devo fare, anche perché sono stata ferma tanti tanti anni, uh-huh. E un po' demotivata dall'ambiente musicale, anche non capita. Nella mia zona c'è una bella cultura musicale, c'è il napoletano, il classico napoletano che è famoso nel mondo, abbiamo dei grandi, grandissimi musicisti jazz, parlo di Giulia Mazzariello, Sandro De Idda, sono veramente fortissimi, diciamo che però il cantautorato è stato sempre messo un po' da parte, la canzone d'autore, non c'è questa grande, come dire, tradizione, ecco, questo lo devo dire, infatti lancio... Ecco, una lancia a mio favore, appunto, è a favore di chi fa questo tipo di musica, del cantautorato, che venga insomma portato avanti, e infatti il fatto che sia nato un premio ad Anacapri è stata una grandissima cosa, e ho pensato adesso devo partecipare assolutamente a questo concorso, adesso mi do una mossa perché basta, non ne potevo più devo farmi sentire in qualche modo, avevo l'esigenza di farmi ascoltare. È stata un'ottima occasione per me questa, certo. Tra l'altro non mi aspettavo neanche di vincere, quando sono arrivati i risultati che ero tra i finalissimi in tutta Italia, tra i finalisti voglio dire, in tutta Italia, già per me era già una soddisfazione, quindi la vittoria è stata un'ulteriore soddisfazione, un'ulteriore conferma, ecco. E ce la fai una soffiata, nel senso, partecipi anche quest'anno, hai mezza voglia di farlo? Ma guarda, ci stai pensando? Ci sto pensando, sì. Quindi... Sì, perché è sempre una vetrina, è sempre, certo. È una cosa buona comunque farsi vedere e farsi conoscere, quindi tutti questi concorsi sono importanti proprio per questo. Insomma, qualcuno ti ha definito anche Kate Bush italiana. Non ha detto Kate Bush italiana, però ha detto c'è qualcosa di Kate Bush, è stato Morgan. A X Factor. A X Factor, che ho fatto anche questa esperienza, perché non snobbo nulla, neanche per me... tutto va bene, nel momento in cui tu fai buona musica la puoi fare dovunque, anche in un programma come X Factor, anche in un programma come Amici, anche se devo dire che molti cantanti non hanno una preparazione, non vengono da vera e propria gavetta, da una preparazione musicale, questa è una cosa che un po' mi, come devo dire, ecco, questo è l'unico aspetto negativo che colgo di questi reality. Però ecco, ho fatto anche questa esperienza, è stata un'esperienza positiva perché sono arrivata proprio sempre lì, tra i 25 su 10.000, ecco, con Morgan, ci portava lui quell'anno, e niente, fece un pezzo, Figlio della Luna, mi ricordo, che cantai quel pezzo lì e disse, lo sai, c'è qualcosa di Kate Bush, e poi continuò a portarmi avanti quasi fino alla fine, c'è mancato poco che rientrassi 3-4, però... Pazienza, sono tornata a casa comunque soddisfatta, certo. Poi ti parlo comunque di 4 anni fa, quindi sono cambiate anche delle cose, sono cresciuta anche io. Giusto. Poi arrivò un giorno allo studio, appunto, prima sì. Del festival di Anacapri, con questo brano, si mise al pianoforte, e allora questo brano era, io gli davo un carattere abbastanza, appunto, cantautorale, ma non solo, perché poi... traspariva il fatto che poteva avere, se lo analizziamo armonicamente, le caratteristiche di un brano del Settecento, più o meno della musica, quindi un'estrazione classica, e allora ci abbiamo messo queste terzine ostinate, appunto questo arpeggio di chitarra che non si ferma mai dall'inizio alla fine, e poi delle inversioni armoniche su alcuni che lasciano un po', diciamo che sono cadute un po' in disuso nella canzone che ascoltiamo in musica leggera oggi, quindi c'era questa formula magica vecchia che però lei aveva portato in qualche modo, cioè ci eravamo accorti che c'era qualcosa di c'era un'energia, certo. E allora abbiamo fuso un po' la sua matrice popolare con questa essenza e la sua poi napoletanità, la sua... Quindi questo mandolinato a un certo punto nel ritornello tira fuori un po' di musica del Vesuvio. E allora questi tre ingredienti credo siano un po' alla base anche della sua personalità. Ed è quello che poi stiamo anche cercando di tirar fuori dagli altri pezzi, quindi è stata una formula magica, appunto, un'alchimia particolare, diciamo di sì. Beh, hai trovato anche terreno fertile, visto che lei scrive canzoni, sì, scrive sì, la musica, quindi anche per te è più semplice, insomma. Ma scrive dei testi che sono un po' dei film, a volte sì, ci si immagina una scena in maniera molto chiara, quindi... diciamo che è molto che facile. Sogno tanto. Penso. È molto facile arrangiare per lei perché ti dà una serie di indicazioni che poi, già dal testo. Che puoi spaziare dove vuoi, insomma. Sì, puoi spaziare dove vuoi. Maurizio. Sì, mi pare Pasquale Cuccio che hai parlato. Mi pare Pasquale. Sì, adesso. Sì, era Pasquale. Hai detto una cosa giusta, Pasquale. Hai parlato dell'insieme, dell'influenza della musica del Settecento. Me la puoi ampliare? Questo è un discorso molto interessante, secondo me. Ma c'era praticamente lei inizia un ritornello dove praticamente confonde un po' l'ascoltatore. Cioè inizia su un quarto grado, su un accordo di un quarto grado minore e poi ritorna sul primo grado, quindi sull'accordo fondamentale, diciamo così. Questa è una formula utilizzata in quegli anni e quindi questa formula lei ce l'ha in genere su tutti i brani suoi, ma non sa di averla, quindi non lo fa in maniera... Sto studiando Pasquale. No, ma è meglio che lasci tutto così perché è tutto molto più naturale e quindi questa cosa qui, diciamo, abbiamo preferito lasciarla perché oggi si tende un po' a correggere, fra virgolette, questa formula cercando di partire da un grado più scontato come il primo grado sull'inizio del ritornello. E quindi diciamo abbiamo avuto questa caratteristica anche non direttamente da lei al pianoforte, quindi certo. Questo input. Ti porto i saluti di Patrizia che ci sta ascoltando dalla zona di Venezia. E poi qui c'hai Carmine che dice scassa tutto, Nadia che dice pronti con tanti puntini esclamativi, Pasquale dai che si sta sciogliendo, e poi ancora Andrea, brava Alfi, chi c'hai poi? Maria Rosaria, Antonio, la Maria tua sorella penso sia dal cognome, penso, sì. Sì, la salutiamo, sì. Ciao Maria, poi c'è Rossi Williams, wow, è un... ti dico Isabella, poi c'è anche che ci sta, Rossi vive wow a Los Angeles, stiamo parlando anche lei a Los Angeles, è un tuo contatto penso, insomma, su Facebook. Adesso non li ricordo tutti. Adesso però mi fai quel regalo perché ci tengo, voglio Maurizio sentissi questa cover, l'ha fatta in una maniera straordinaria. Poi lei è una cantante siciliana, se non sbaglio o no? Giuni Russo, sì. Siciliana. Sì, sì. Io amo moltissimo questa tua versione, più di qualcuno ti ha fatto i complimenti. Ah, mi stanno dicendo che Giuni Russo è sarda. È sarda? Sì, sarda. Io sapevo siciliano. Vabbè. Ah, anch'io ero convinto. Maurizio? Sì, confermo, è sarda. Ho fatto la figura. Abbiamo fatto una figuraccia. Ero convinto fosse siciliana, non so perché. Va bene, Giuni, perdonami. Ci fai questa canzone? Certamente. Che si chiama? Mediterranea. Questo è assolutamente, cari amici, cari ascoltatori, da non perdere. Questa è la vostra emittente, Blu Radio Veneto. Vi ricordo ancora i nostri numeri telefonici, quelli in studio 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms 346-2320-033. Sono da solo questa sera perché Maurizio è collegato, ma insomma c'è anche lui con la voce, è vero Maurizio che ci sei? Sì, come se ci fossi, sì, come... ecco, ma sono collegato. Però grazie anzi di aver aderito lo stesso, anche se non stai tanto bene. E adesso ci ascoltiamo questa meravigliosa canzone cantata da Alfina Scorza e suonata dai suoi amici. Thank you. sole mio e le lampare vanno a dormire, il sole mi scalderà il pomeriggio al mare, mediterranea passione, mentre ti vengo a cercare. Coprimi stasera, la rugiada mi fa tremare, portami a ballare oppure altrove, ma portami via da qui, per le strade che sai, verso la notte, non mi abbandonare al mio silenzio e portami via da qui. Wow, e ancora wow, meravigliosa. Maurizio, per una volta tanto sono io che ti dico. Sono non ci sono, purtroppo non ci sono. È bella vederla anche muoverla, che si muove, lei si muove tutta mentre canta, insomma, chiude gli occhi e si muove. Bellissima, bravissima Alfina. Allora, Franco dice, Alfina sei fortissima, e si firma Franco. Poi ancora Pietro invece dice, grandissima voce, è una stupenda emozione ascoltarla. Grazie. Grazie, vi ringrazio. Hai visto? Ti sì. Stanno ascoltando, insomma, quindi ti fa onore, insomma, anche queste parole di, sì, insomma, di simpatia e di affetto nei tuoi confronti, insomma. Maurizio. Sì, volevo chiedere ad Alfina, qual è stata la difficoltà ad imbattersi, ad prendere un pezzo di una cantante come Juni Brusso, che aveva una voce particolarissima? Assolutamente inimitabile. Che bella responsabilità mi sono presa. Oddio, non arriverò mai a lei. Comunque, ci sono molti cambi vocalmente. Si passa dalla voce piena al falsetto, quasi sul lirico. Lei faceva proprio, andava proprio sul lirico. Quindi, vabbè, lei è straordinaria perché riusciva a far conciliare lirica e voce leggera in qualcosa di unico proprio. Perché abbiamo tante cantanti liriche, tante cantanti leggere, invece lei ha fatto questa fusione con una voce particolare proprio, piena di sfumature, di ricca, era uno strumento la voce di Juni Russo, definirei, certo. Uno strumento musicale. Io mi permetto solo, nessuna polemica Pasquale, ma avevo ragione io e Alfina, è siciliana. Siciliana. Sì, abbiamo sbagliato tutti e due. Abbiamo ragione. Io ho sbagliato. Sì, che sono a casa, potevo cercare le cose. Vabbè, insomma. Vabbè, vicino alla Sardegna. In ogni caso, volevo intromettermi ancora per dirti una cosa. Cioè, sì, parlavi della liricità di Giuni Russo e giustamente Battiato, quando l'ha scoperta, ha anche messo in evidenza quel tasto. Lui prima ha scoperto Alice, che non aveva una voce lirica, però è una voce molto particolare. È più scura, esattamente. Sì. E Giuni, e quando Battiato scrisse per Alice, per Elisa, era un pezzo difficilissimo, un pezzo assolutamente non sanremese, eppure ha vinto Alice. Sì, e quindi, grande voce, grande pezzo. Esatto, ecco. questo famoso pezzo che poi Battiato scrisse per Giuni, era un pezzo estivo, sì, però estivo, ma non estivo da consumarsi, un estivo da continuare a sentire. Sì, vero. Bella osservazione, infatti. Era un grande pezzo, sì. Hai scelto proprio questa canzone che ti si addice per la tua voce, insomma. Vabbè, ma io adoro lei come cantante, per cui tra le mie cantanti preferite in assoluto, in Italia. Certo. Pensate che ha vinto Castro Carlo nel 1967 con una canzone che ha successo in Italia con Fausto Leali, cioè A Chi, ma originalmente era cantata da una bravissima artista che mi piace molto, cioè Timigolo. Era grande. Vabbè, ricordi ci vogliono sempre. 22.02, oggi è giovedì 26 aprile. Agostino Spallone in studio, in regia e anche praticamente factotum, perché sono al 50% stasera, Maurizio. Però comunque ci sei qui lo stesso. Ti ringrazio ancora per aver aderito lo stesso, anche se non stai fisicamente molto bene. Allora, Alfina, il tuo progetto. Sì. Che sta per venire alla luce, insomma, definitivamente, cioè voglio dire, lo completi, sta per nascere, insomma. Certo. Si chiama, ci vuoi parlare qualcosina? Beh, il progetto si chiama Di Rosse Sensualità, prendendo proprio il nome dal titolo del brano vincitore, ecco. E questo progetto, ci sono parecchi ingredienti, c'è la mediterraneità, quindi suoni mediterranei, c'è una matrice classica, anche... e la fusione anche col jazz e la bossa nova, ecco, suoni mediterranei, jazz e bossa nova. E, parlare del mio progetto non è semplice, anche perché devo praticamente fare un'autocritica ogni volta sui miei brani. Tratto vari temi. Dalla notte d'amore tra due amanti, come di Rosse Sensualità, alla società che ci porta comunque all'omologazione, quindi dobbiamo vestirci così, essere sempre alla moda, questo l'ho descritto proprio in Grand Bazar, l'amore è un qualcosa che comunque si programma, perché oggi sono tutti tesi a... l'amore si vive in maniera molto, molto calcolata oggi, e quindi ho cercato di un atto di protesta proprio nei confronti di questa cosa. Credo che sia uno dei sentimenti più puri e incondizionati, sia un po', come dire, materializzato. È una cosa che a me ha sempre infastidito. Poi in Ostinato perché, che l'ascoltiamo fra poco. Sì, sì, che l'ascoltiamo fra poco, è un pezzo folk. Dove si sente comunque sempre la mediterraneità, uniamo il folk con la mediterraneità, parlo della vita, del cambiamento che avviene in un istante, mentre stai facendo le tue cose, mentre sta andando tutto bene, poi improvvisamente c'è quella batosta che praticamente ti... Lo sto spiegando in questo modo, in maniera molto semplice, anche se il testo non è proprio così. Quindi c'è sempre questa fatidica domanda che ci poniamo, a cui non troviamo una risposta. E poi ci sarà anche il Tanghero, che è un brano scusate se ne sta scendendo la voce il Tanghero, che è un brano ironico, ho giocato molto sull'ironia ed è un brano con un finale a sorpresa. Non lo mandiamo in onda perché parteciperà a un concorso. Certo. non dirò molto su questa cosa, per cui non posso per regolamento mandarlo in onda. E poi che c'è più? Pasquale, vuoi aggiungere tu qualcosa? Ma c'è tanta... Ci sono anche altri brani, c'è poi il dialetto ovviamente. Sono tutte canzoni comunque... C'è una canzone in dialetto cilentano. Sì. Cilentano. Cilentano. Che non è il dialetto... Non è... Napoletano. Non è il napoletano. Non è il napoletano. È una zona molto, molto vasta, il Cilento. quindi è quasi, ha quasi una sua lingua, diciamo, vabbè, stiamo esagerando, è un dialetto. Vabbè, è giusto, è un dialetto, però è giusto, è giusto, è bello così. E tra, credo, l'esponente di maggiore rilievo sia Aniello De Vita, di questa terra, quindi un grandissimo autore che cogliamo l'occasione anche adesso di salutare, giusto Orfina? Salutiamo. Sì. Ciao Aniello. Aniello De Vita. Me lo ascolterò, grazie, a proposito di Lì Pensieri è tutto, diciamo, grandissima personalità appunto del Cilento, che ha saputo scrivere delle pagine di musica fantastiche. E, diciamo, nel suo disco ci sarà tanta musica, ma soprattutto tanta autenticità, cioè la ricerca introspettiva, però condivisibile da tutti, cioè poi diventa un tema sociale, sì. Diventa può trattare l'omosessualità, può trattare i problemi, insomma, diciamo un sacco di ingredienti che ci sono, molto interessanti, ma toccati, cioè visti da, anche da un altro punto di vista, quindi un'analisi particolare dal punto di vista del testo, che poi viene fuori anche sul piano musicale, quindi liberandosi un po' di tutto, soprattutto cercando di fare in modo che il pezzo, il brano per prima debba piacere all'autore, certo, all'autrice in certo, questo certo, caso, certo, certo. Spogliandosi un po' di tutte quelle regole che possono influenzare, credo, il commercio, perché Alfina non vuole fare un lavoro che arrivi per forza a tutti. Che belle parole. No, vuole fare un lavoro dove può esprimere in qualche modo il suo pensiero, dove, e che in qualche modo, che lei si augura, che venga condiviso da un numero di persone, ci si augura, magari ampio, però non vuole essere commerciale, perché il commerciale, diciamo, a volte condiziona il risultato artistico, cioè toglie dell'arte per mettere un prodotto, certo, questo certo. È il punto, credo, nevralgico della musica di oggi, ma non voglio criticare assolutamente poi tutti i meccanismi che ci sono per quanto riguarda la musica pop, assolutamente, questa non è una critica, ma il nostro modo di fare musica è questo. A proposito di persone, qui aumentano, Alfina. Allora, c'è Andrea che dice brava Alfi, e poi c'è Pietro che dice grande, con tanti puntini, ho fatto la migliore scelta possibile. Poi ancora Pasquale dice saluta i tuoi cugini, però in particolare tuo cugino Pasquale. Ho capito, dai. Allora Pasquale chi è? Dice che ce la puoi fare. Ce la fai? Lo saluti. Ce la faccio. Ciao Pasquale, ciao. E poi c'è anche Enrica che commenta Pasquale, dice come sei provinciale, cuginetto, insomma, poi le trovi comunque tutte su Facebook. Allora, ci ascoltiamo qualcosa. Una famiglia stupenda. Dove... Cosa? Una famiglia stupenda. Ah sì, beh, insomma. Che meraviglia queste cose. Allora, Alfine, io direi, se siete d'accordo, tu e la tua band, di far ascoltare qualcosa dal disco questa volta, così ti riposi un po', certo, ti dissetti. Certo. Ci ascoltiamo, sì. ti ascoltiamo questo Ostinato Perché. Certo, certo, ho accennato prima, sì. Ok. In un attimo può cambiare, sai, una vita se uno vuole. In un attimo la città si fa un deserto spiacevole. Quando si agita l'umiltà in castelli di ipocrisia e si scontra l'ingenuità con la cruda verità. Quando sembra scurirsi il tempo su strade di consuetudine e la gente si perde davanti a sorti di ambiguità. Brutalità è un'immagine Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa era Ostinato Perché, dal progetto che vedrà la luce tra poco. Così. E questa invece è la vostra emittente, sempre preferita, come piace dire sottoscritto, cioè Blu Radio Veneto. Siamo a Padova, siete in frequenza 88700, 94600 MHz in modulazione di frequenza, siete anche in streaming direttamente dal nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. Questa è la voce di Agostino, Spolaore, questa sera da solo, ma c'è anche Maurizio. Ci sei? Sei ancora lì? Sì, sì, sono qua a casa, chiaramente. Ho sentito con molta attenzione questo pezzo, che aveva i violini sono una cosa molto bella, molto interessante musicalmente, danno una certa sensazione. Adesso Alfina mi devi parlare di questo pezzo. Ah, ecco. Poi c'è anche il tuo produttore, al limite parlerà anche Pasquale dopo. Ma guarda, quando l'ho scritto ho sempre pensato agli archi, sempre ho immaginato un arrangiamento del genere, perché è comunque un po' gotico questo pezzo. È... Allora aveva ragione Morgan? Mi sa di sì, un po' lo inquadra bene le persone, artisticamente. Morgan è bravo, uno è molto... che sa fare le cose. Bravissimo. E i violini si prestano a questa atmosfera magnificamente, per cui ho pensato subito a questa cosa qui, con Pasquale ne abbiamo parlato. E poi abbiamo coinvolto degli amici, no? Sì, degli amici. Ringraziamo Antonello Giboni, grandissimo violoncellista, Tommaso Immediata, sì. Grande violinista, appunto anche lui di Salerno, sì. Anzi di Bellizzi per l'esattezza. Bellizzi. Okay. Quindi persone con le quali abbiamo condiviso queste emozioni e che ci hanno permesso di mettere poi in pratica queste emozioni, no? Poi se c'è anche la chitarra che si muove proprio napoletanicamente, si può dire? In maniera... Beh, abbiamo coniato adesso un altro termine. Ecco, cerco comunque di fondere quello che sono le mie radici con altri... Mi pare aver capito che Pasquale parlava del violoncello e tu parlavi del gotico. Il goticismo, il violoncello, il gotico ci sta molto bene. Sì. Si attacca assolutamente, secondo me. Sì. Lo penso anch'io così. Non avrei immaginato nessun altro tipo di vestito su questo brano. Per cui, vabbè, poi l'ho scritto in un momento particolare della mia vita e ci sono molto legata. E niente. Poi Pasquale ha fatto il suo, ovviamente, ha fatto un grande lavoro e... con le sue chitarre, con... Vabbè, anche le partiture sono venute fuori da così, in maniera molto naturale. Sì. Era il suo decorso naturale, credo. Diciamo, questo arrangiamento è venuto fuori in maniera molto spontanea. Non ci abbiamo lavorato moltissimo. Abbiamo... Anche il missaggio è stato un lavoro molto, molto di getto, veloce. Quindi abbiamo lavorato con grande serenità, proprio perché il brano aveva già raggiunto la sua dimensione già dalle prime note, dalle prime... registrazioni. E quindi credo che poi tutte queste cose vengano un po' fuori. Abbiamo anche lasciato la nota, o anche diciamo la piccola imperfezione, però è servita per arrivare in qualche modo ad emozionare, credo poi che si possa poi alla poi fine c'è anche il rock, c'è una parte anche un po' c'è una parte rock dove veniva fuori una sua rabbia in qualche modo, quindi diciamo a vari momenti che evidenziano diversi stati d'animo. C'è cioè la parte na, sì, quella lì. Con un cambio di tonalità, sì. Dove abbiamo praticamente cambiato, improvvisato, anche perché il rock anche si sposa bene con questa atmosfera gotica, queste cose qui. Sì. Con gli archi e tutto. Alfina, e i tuoi dati se qualcuno volesse contattarti, cioè il sito e via discorrendo? Allora, il sito lo stiamo costruendo in questo momento, per cui al momento basta contattarmi su Facebook Alfina Scorza. Cioè, al momento. Poi vi saremo, magari più là vi daremo altre... MySpace non c'è? No, non ancora, siamo in fase ancora di lavoro, ecco. Questo è un progetto per... Stiamo facendo queste ospitate in radio per farci conoscere, certo. Andare... il terreno. Beh, sta partendo tutto dal premio Lauzi. Da un anno, insomma, questa parte, insomma. Sì, è partito. Sì. Quindi piano piano adesso costruiremo tutto. Ti ha dato l'input, insomma, questo premio, questa vincita. Direi proprio di sì. Beh, insomma, con la bello, voce... devo dirlo, sì. Con la voce che hai era un peccato. Voleva. Sì, certo, certo, certo. Senti, hai in programma qualche concerto prossimamente? Al momento siamo ancora in fase di lavorazione. Anche del, su quello? Del brano. Abbiamo avuto delle proposte a livello proprio di produzione. Stiamo sì. valutando... l'idea, sì. Ci sono diverse idee, diverse proposte. E credo che la formula migliore per far uscire questo lavoro sia proporlo combinandolo, abbinandolo, magari ad un libro di poesie oppure cose del genere, dove insomma una formula anche letteraria, insomma, certo, con, qualcosa di diverso. Qualcosa insomma. Di diverso, ma non per ricercare il diverso, certo, per, ho capito cosa vuoi dire. Per rendere particolare sì, il non, prodotto. Ma non per gli effetti speciali. Sì, non per gli effetti speciali. Insomma, c'è stata una casa editrice che ci ha fatto una proposta e la stiamo valutando, appunto. Credo sia la maniera forse migliore per arrivare anche ad un altro tipo di pubblico. In bocca al lupo allora. Crepi, crepi. Guarda, noi l'anno scorso abbiamo ospitato un pianista che magari ci sta ascoltando da Genova, Maurizio lo sa. È venuto qui, ha fatto il suo live. Insomma, due giorni dopo che ha fatto il live qui a Bulladio Veneto, l'ha chiamato una casa discografica che l'aveva sentito proprio qui e gli ha proposto di fare un disco. Madonna. Che meraviglia! Che meraviglia. Vediamo. Allora, abbiamo ancora prima di salutarci, abbiamo ancora qualche minuto. Io volevo. Capire, insomma, conoscerti ancora un po' di più al fine, cioè chiedendoti a casa, da sola, cosa ascolti? Ecco, questa è una bella domanda perché ascolto di tutto. Ultimamente sto ascoltando molto jazz, devo essere sincera, mi sto facendo una bella cultura per quanto riguarda questo genere, quindi Billie Holiday, che in assoluto è la più grande nel jazz, non ci sono... Non si può paragonare a nessun'altra per il suo modo di interpretare, e Chet Baker anche. E poi ovviamente seguo anche ascolto anche altri generi come il folk, quindi sono una fan proprio di De André, di Battiato, dei cantautori italiani, soprattutto di De André, proprio una grande fan. E ho sempre ascoltato tanto questo tipo di musica, questo tipo di musica. E, da Tenco anche, Luigi Tenco anche. Ecco, questi sono gli ascolti con cui sono cresciuta. Poi vabbè, se vogliamo andare anche nel pop ci sono i Beatles che sono da piccolina che e poi Bob Marley, molto sei molto variegata. Sì, sì, sì, sì, non seguo soltanto quel tipo di musica. Persino anche la musica classica ascolto, seguo veramente tanti generi insieme, anche il metal, anche... Ma se ti devi portare un disco, cosa ti porti con te? Bella domanda. L'ultimo di Billie Holiday che ho comprato. Che ti piace? Che mi piace tanto, e sono anche nuove tracce, tipo... E ultimamente, vabbè, mi sto appassionando particolarmente a questa donna... questa cantante superlativa, ecco, mi porterei quello perché veramente c'è tanta scuola, tanta questo. Facendo volevi Billie Holiday. E invece Pasquale? Ma ascolto moltissimi generi musicali. Ricordiamo chi sei poi in realtà tu o no? Il tuo passato. Vabbè, intanto perché non l'abbiamo ancora detto, se ti fa piacere dire. Sì, sì, certo. suono la chitarra e canto nei Santa Rosa, insomma, gruppo degli anni 80, quelli che facevano Io senza di te io che farei, oppure Souvenir, che era poi una raccolta di successi degli anni 60 riproposti negli anni, cioè alla fine degli anni 70. Ascolto soprattutto musica che che ti arriva in qualche modo. Per esempio, tra i chitarristi ascolto Larry Carlton, oppure ascolto Robin Ford, un po' spostati sul... Tu Maurizio lo conosci? Non ho sentito bene. No, cosa hai detto? Larry Carlton. Poi hai citato... Robin Ford è un chitarrista. Una matrice blues, jazz blues, diciamo. Come posso ascoltare magari anche la musica del grande rock dei Pink Floyd, per esempio. Come posso... ascoltare anche i Dire Straits con il tocco della chitarra magica, certo, di Martin Knopfler. Un disco preferito? Sì, Making Movies. Ah, dei Dire Straits. Dei Dire Straits, sì. Dei Pink Floyd, il grande suono di The Wall. Ah, non Dark Side of the Moon. No, credo, vabbè. The Wall credo sia una cosa extra. Sì, un punto di arrivo, credo, perché avevano raggiunto una consapevolezza del tocco della chitarra di Gilmour, forse meno sperimentale dei primi anni, però molto più consapevole, e lo preferisco, diciamo. Mi inserisco un secondo, Pasquale, non potevo non farne a meno. The Wall è un disco totalmente di Roger Waters, sei d'accordo in questo? Sì, ma certamente, ma la chitarra di Gilmour aveva la sua... Se a un brano come Another Brick in the Wall togliamo la chitarra di Gilmour, credo ci resti poco. Certo. Credo ci siano le grandi alchimie nel rock, cioè grandi personalità che poi si fondono. E quindi da lì poi si vede... la grandiosità di un gruppo, come nei Beatles c'era magari McCartney e c'era Lennon in una maniera magari anche contrapposta, l'animo ribelle di Lennon. Io bisognerebbe fare un'altra puntata con te. Sì. Non mi sbaglio, Kate Bush ha collaborato proprio con Gilmour. Sì. Al fine, siamo arrivati alla fine. Il gioco di parole, visto? È arrivato Alberto Fresco, che tra pochi minuti sarà qui con la sua classifica, la sua musica rock, che vi consiglio assolutamente di ascoltare, perché è un programma bellissimo, troverete sempre le novità. Lui è appassionato di questa musica e cerca sempre le cose nuove, ovviamente stanno sempre anche in questo settore con gli emergenti, soprattutto, insomma, ma anche con gente famosa. Allora, Alfina, noi ti ringraziamo veramente di cuore. Ma grazie a voi, grazie Maurizio. Lascio a te la parola prima di tutto. Sì, io ringrazio te, Agostino, grazie di avermi consentito di partecipare al programma, anche se un po' fuori degli studi. Io ringrazio Alfina e la band che ha suonato assieme ad Alfina. È stato un dal punto di vista musicale, io l'ho sentito in radio, si sentiva molto bene, quindi una grande emozione in ogni caso. Grazie a te, Maurizio, e in bocca al lupo per lunedì, ci vediamo, insomma. Se... Sì, speriamo che fisicamente ci sto. In bocca al lupo. E grazie ancora. Allora, Alfina, noi ti salutiamo, dicevo, grazie di cuore di aver partecipato e di aver accettato l'invito. Ma fatto grazie un mondo a voi di piacere. Per l'opportunità che mi avete dato questa sera, un'ora e mezza per farmi conoscere. È stato un onore averti, conoscerti anche di persona, sei una cara amica, lo sai. Grazie. E un grazie anche a Pasquale, perché con te, insomma, abbiamo fini di telefonate. Grazie di aver portato Alfina qui, insomma, e ringrazio anche Costantino Caruccio alla chitarra e Ivan Cantarella alle percussioni. Salutano. Grazie di cuore. Ci salutiamo con l'ultima canzone, Alfina. Sì. Un altro quadro della tua terra. Questa è proprio una ciliegina sulla torta, questa è la mia terra. È il Cilento ed è un pezzo proprio in dialetto cilentano, quindi non napoletano, perché ci sono proprio delle differenze, dei particolari, dei dettagli. Il pezzo è Gli Pensieri, e gli autori sono, e questo lo devo dire, Agnello De Vita è il testo e Pasquale Curcio ha fatto la musica l'arrangiamento, ecco. È parte della musica. Con Agnello De Vita che aveva ben impostato anche la melodia, sì. Quindi ringrazio soprattutto Agnello De Vita. Ringraziamo Agnello, assolutamente. Lo salutiamo caramente. Ha saputo scrivere delle pagine importantissime, certo, del Cilento, ma soprattutto ci ha offerto delle immagini con Gli Pensieri, perché poi bisognerebbe conoscere un po' il dialetto di questa terra per figurarsi anche questo certo brano. È un onore per noi, per questa emittente, proporre anche questa musica. Noi diamo lo spazio a tutti ed è giusto ed è bello soprattutto che tu canti anche la canzone della tua terra, insomma. Grazie di cuore. Sono fiera di questo. Immagino. Grazie di cuore Alfine, un abbraccio, un bacio, un saluto a tutti voi e grazie anche agli ascoltatori che ci hanno ascoltato fin qui e con Alfine Ascorza e la sua band. Prego, ciao. Che strada fanno i pensieri tuoi? Caccio venga a passare ore e momenti, io me li piglio tutti se tu vuoi. So gioie, son dolori, son tormenti. Che strada fanno i pensieri tuoi? Come faccio a capire se te ne vuoi? Zumba, coppa la perola, pizzola l'uva fraola, e se ti piace merola, torneba pizzola. Zumba, coppa la perola, pizzola l'uva fraola, e se ti piace merola, torneba pizzola. Pizzola, l'uva fraola, e se ti piace merola, torna a pizzolare.